24 mattino di Alessandro Milan. E allora siamo qua, cari ascoltatori, anche questa mattina dalle 7.20 fino alle 9. Potete scriverci messaggio al 349-238-6666. Siamo anche sulla nostra pagina Facebook. Venite a trovarci, ci trovate così 24 mattino. Saluto il nostro Peter Vescapè lì in regia. Lui ci dice forza Milan ancora oggi più che mai. Non so, non capisco, ma mi adeguo. Va bene, allora oggi parleremo di questa vicenda degli immigrati. Gli immigrati protagonisti, dopo che il Presidente della Repubblica ha detto ci vuole una legge per accelerare la cittadinanza per i figli degli immigrati che nascono qui in Italia, crescono, studiano, frequentano amici italiani, vivono nella cultura italiana. È una follia che non siano italiani. Che ne pensate? Ne parleremo dalle 8.20. Ora iniziamo dalla lettura dei quotidiani in edicola. Questo giovedì 24 novembre, intanto i titoli di apertura quasi tutti declinati sulla situazione finanziaria e soprattutto sulla crisi che ora investe anche la Germania, ormai è una crisi certificata, una crisi di tutta l'area euro. Il mercato punisce i Bund, così titola Il Sole 24 Ore in apertura. Per La Stampa, crisi, trema anche la Germania. Per il Corriere della Sera, misure anticrisi, corsia veloce. Repubblica, allarme BTP pressing su Monti. Il Messaggero, la crisi investe la Germania. Per Il Manifesto, questo si traduce con una foto di Angela Merkel e il titolo Eurobotto. Il Giornale, chi ci vuole poveri? Noi soffriamo per la crisi e la Germania ci guadagna più di 50 miliardi l'anno. Poi c'è chi mette Libero, una storia che coinvolge il presidente della Camera Fini, la turbocasta, Fini si fa il pulmino blu, lo vedremo tra pochissimo di che si tratta. Mentre Il Fatto Quotidiano intervista il numero uno di Finmeccanica, Guarguaglini, niente dimissioni, nessuno me le ha chieste, questo è il titolo di apertura di prima pagina. Allora, queste alcune delle aperture, intanto vediamo appunto due vicende che riguardano il Parlamento. Arriva la stretta, arriva la stretta per i deputati, ma non solo, anche per i fotografi del Parlamento. La privacy dei deputati, sì alle foto in aula, ma limiti agli zoom. Vi ricordate, non so, i bigliettini che Berlusconi scrisse a due deputate al giorno dell'insediamento alla Camera del 2008, oppure il bigliettino con i famosi 8 traditori, oppure il Corriere rimette la foto di Denis Verdini e uno zoom sul suo telefonino, le ultime chiamate fatte a alcuni deputati colleghi il giorno della fiducia, o ancora Enrico Letta che la scorsa settimana imprudentemente ha mandato un biglietto al Premier Monti e subito zoomato e ripreso da tutti i giornali, in cui Enrico Letta chiedeva Mario, quando vuoi dimmi forme e modi in cui posso esserti utile. Bene, può darsi che tutto sia finito, perché adesso basta zoom. La privacy dei deputati, si è deciso di costituire un'associazione dei fotografi accreditati alla Camera che non devono più violare la privacy, per esempio fotografando appunto questi biglietti privati. Foto in aula, arriva la stretta, così anche su Repubblica. Per la Camera non si deve ledere la privacy, anche se arriva una stretta, pare anche per i parlamentari. Questo se ne sta discutendo, non è ancora ufficiale, ma la famosa buvette, il ristorante alla Camera, pare che possa trasformarsi presto in un self-service, altro che camerieri, un bel self-service. Il sobrio Monti sta cominciando a mietere vittime. La seconda vicenda, che è l'apertura di Libero e che riguarda il presidente della Camera Fini, è una storia che Libero mette come una storia acquisita. L'articolo è di Franco Becchis, il vice direttore. Fini si fa il pulmino blu, questo è il titolo di apertura. La sorpresa, scrive Becchis, è venuta qualche tempo fa quando un deputato è sceso in autorimessa con una delegazione di colleghi per manifestare a una manifestazione sportiva. Non vogliamo portare via troppe auto di servizio, ci vorrebbe un van, ha chiesto al responsabile dell'autorimessa. C'è un van, una Lancia Fedra con 7 posti che la Camera appunto ha preso per mandare i deputati, invece che 7 macchine di servizio, mandarle insieme in caso di missioni congiunte. Ebbene, questo deputato è sceso e ha detto: siamo in 7, perfetto, andrebbe benissimo quel van. Quella Lancia Fedra, responsabile dell'autorimessa, ha risposto: mi spiace, quel van è a disposizione esclusiva del presidente della Camera, Gianfranco Fini. Non posso darvelo. E da qui, scrive Libero, che scopriamo questa storia. Fini ha un pulmino blu che si è fatto mettere a disposizione dal parco automezzi della Camera, questa Lancia Fedra. Ha fatto smontare i sedili posteriori, ha fatto riadattare il pulmino con vetri oscurati per utilizzarlo soprattutto durante i weekend. Secondo testimonianze dirette raccolte da Libero, nello spazio così creato il pulmino blu accoglie giochi piuttosto ingombranti delle figlie del presidente della Camera. In più occasioni ha trasportato bombole di ossigeno e attrezzatura subacquea per le immersioni di Fini. Insomma, questa è l'accusa di Libero. Fini si è fatto il pulmino blu, la Camera aveva acquistato un van con 7 posti per trasportare deputati in missione comune risparmiando sui costi, ma Gianfranco l'ha requisito per usarlo nei weekend, ne ha fatto oscurare i vetri, ora è a sua esclusiva disposizione e soprattutto l'accusa di Libero ci trasporta le bombole nel weekend e i giochi delle figlie. Insomma, l'accusa è abbastanza circostanziata e anche dura, insomma, per il presidente della Camera. 24 mattino. Eccoci qua dunque, le 7:33 minuti, iniziamo e continuiamo la lettura dei giornali concentrandoci su quello che è la crisi finanziaria. Ieri c'è stato un segnale ben preciso in Germania quando la collocazione dell'asta dei Bund tedeschi è andata, ma deserta forse è sbagliato il termine, però certo è stato un disastro, un risultato disastroso, così definito dagli stessi funzionari tedeschi. Ne parla e ne scrive Alessandro Merli da Francoforte sul Sole 24 Ore a pagina 3. Un flop, l'asta dei Bund tedeschi, questo è il titolo dell'articolo. La sfiducia degli investitori raggiunge la Germania. Praticamente su 6 miliardi di Bund ne sono stati collocati solo 3,6 miliardi, gli altri non sono andati in vendita. Alla fine poi ci ha messo una pezza, come si suol dire, la banca centrale tedesca, che ha acquistato, insomma, la Bundesbank ha acquistato e li collocherà sul mercato secondario questi Bund, ma è un risultato senza precedenti recenti. Vuol dire che anche la Germania è sotto attacco, vuol dire, come scrivono vari commentatori, che ormai è tutta l'area euro sotto attacco. A questo proposito vi voglio sottoporre 2 editoriali. Il primo è di Guido Tabellini, in prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo è: il re è nudo. Come molti avevano previsto, le decisioni prese nell'ultimo vertice europeo di poche settimane fa si sono rivelate del tutto inadeguate ad arrestare la crisi, scrive Tabellini. Ormai si è diffusa la convinzione che le fondamenta stesse dell'euro siano viziate da un difetto costitutivo. In tutti i paesi avanzati la banca centrale ha il compito di tutelare la stabilità finanziaria agendo da prestatore di ultima istanza. La BCE questo compito può svolgerlo solo a metà. Essa può offrire liquidità alle banche in difficoltà, ma non può farlo nei confronti degli stati dell'euro. Il risultato è che i paesi ad alto debito pubblico sono lasciati in balia dei mutamenti di umore dei mercati. Fino a che la fiducia dura, tutto va bene. Se per qualche ragione la fiducia vacilla, il peso del debito diventa presto insostenibile. E inoltre, scrive Tabellini, questo problema è aggravato da un secondo grave difetto nelle fondamenta dell'euro. La politica monetaria è stata centralizzata, ma la supervisione bancaria è rimasta una competenza nazionale. E dunque è difficile immaginare un ritorno della fiducia se questi difetti costitutivi non sono corretti. Bisogna ammettere che abbiamo sbagliato, e l'asta dei titoli di Stato tedeschi rimasta invenduta è l'ultima conferma di quanto diffusa sia ormai la sfiducia. E anche Francesco Giavazzi e Alberto Alesina, in un editoriale congiunto in prima pagina del Corriere della Sera dal titolo "C'è una sola via d'uscita", analizzano proprio questo attacco ormai su tutti tutti i fronti all'euro e scrivono a Lesina e Giavazzi. A questo punto c'è un solo modo per salvare l'euro, un intervento forte della BCE. È una soluzione molto problematica a cui si è giunti a causa dell'irresponsabilità di governo dopo governo in parecchi paesi europei, compreso il nostro, ma non vi è altra soluzione. Intervenire sui flussi, ad esempio cominciando a emettere eurobond, cioè titoli garantiti dall'Unione Europea, anche se fosse possibile agirebbe troppo lentamente. Bisogna intervenire sugli stock, agire sui flussi non basta più. La BCE può acquistare quantità illimitate di titoli, riducendo la volatilità, riportando i rendimenti ai livelli pre-crisi. Molti dicono che questo è il peccato originale dell'euro, non avere una banca centrale che si comporta come la Federal Reserve americana. Sta di fatto che, scrivono Alesina e Giavazzi, per salvare l'euro occorrerebbe estendere i poteri esecutivi dell'Unione Europea alla politica di bilancio, non alle singole misure o al mix tra spesa e imposte, che deve rimanere prerogativa dei parlamenti nazionali, ma ai conti pubblici aggregati, evoluzione del debito e saldi di bilancio. Certo, è una rivoluzione, ci rendiamo conto che è necessario cambiare i trattati europei, ma è la sola via per salvare l'euro e i 60 anni che abbiamo dedicato a costruire l'Europa. Insomma, un euro totalmente sotto attacco, mentre oggi Mario Monti, che è tornato 24 ore a Roma, perché? Perché vuole dare questo colpo di acceleratore, così lo titola Repubblica, il colpo di acceleratore di Monti, i primi passi già la prossima settimana, l'ICI, l'IVA, il taglio del debito, bisogna agire in fretta, fare presto, come riecheggiava nel titolo del Sole quel fate presto di qualche giorno fa, perché anche l'asta ieri in Germania dimostra che la crisi è sistemica e la crisi riguarda tutta l'area dell'euro. E infatti oggi Monti ne parlerà con Angela Merkel. Uno dei temi sul tavolo su cui discutere è quello degli eurobond. Le posizioni sono molto chiare, questi prestiti garantiti dall'Unione Europea. Monti li appoggia, Barroso, il Presidente della Commissione, li appoggia, Angela Merkel no, la Germania non li vuole. Per la verità Monti, oltre agli eurobond, vorrebbe una azione coordinata, questo è il titolo che trovate un po' ovunque sui giornali, sulla stampa: Monti preme su Berlino, ora agire coordinati, oppure sul Corriere della Sera: Monti cabina di regia sulla crisi. L'agenda dell'incontro sarà appunto anche su questo, agire su una crisi che è di tutti insieme. Si vedrà se la Merkel, che preferisce questi direttori a due con Sarkozy, col suo amico Sarkozy, accetterà di fare un passo così di avvicinamento per un'azione più congiunta invece di fare tutto con Francia e Germania. Certo, il salasso pagato ieri e lo scotto pagato ieri con l'asta di Bund tedesca andata in gran parte deserta forse potrebbe portare a più miti consigli la cancelliera, ma staremo a vedere. Oggi c'è l'incontro, intanto le novità che si preannunciano appunto dalla prossima settimana, qualcuno dice parte la super IMU, cioè questa ICI reintrodotta e modificata in senso federalista, staremo a vedere se ci sarà l'esenzione per i redditi bassi, staremo a vedere che succede, ma certo già dalla prossima settimana, dopo questi incontri in Europa, pare che Monti ora voglia fare sul serio, anche perché il tempo sta per scadere, nel senso che la crisi morde. E intanto che cosa succede? Beh, una notizia che c'è su tutti i giornali è: scatta l'acconto di fine mese dell'IRPEF ridotto dal 99 all'82%, dunque a novembre IRPEF più bassa del 17%, così titola Il Sole 24 Ore, pagina 12, ne scrive Tonino Morina. La riduzione dell'acconto IRPEF dovuto entro il 30 novembre per il 2011 è di 17 punti percentuali, così nel decreto firmato da Mario Monti, ne riporta la misura dal 99 all'82%. Uno stesso decreto che prevede la riduzione di 3 punti percentuali anche per l'acconto IRPEF relativo al 2012, che sarà pari quindi al 96%, non al 99%. Questo, come scrivono i vari giornali, fatto a novembre perché dovrebbe stimolare anche, così titola per esempio Il Secolo XIX a pagina 3, stimolare i consumi in vista del Natale. 3 miliardi per i consumi con l'acconto IRPEF rinviato, o meglio tagliato del 17% in questa decisione del Premier Monti. Mentre per quel che riguarda le pensioni c'è uno sguardo su quello che succederà? Sapete che ci sono varie riforme in campo, il sistema retributivo, contributivo, prorata, insomma l'abbiamo spiegato e tutti i giornali ne parlano in questi giorni. In questa incertezza, scrive il Corriere della Sera a pagina 9, c'è una corsa alla pensione. Coloro che sono vicini alla famosa quota 96, vale a dire 60 anni di età e 36 di contributi o 61-35, coloro che sono vicini alla pensione, raccontano soprattutto i patronati e gli sportelli dell'INPS stanno assediando gli uffici per cercare di capire, appunto nell'incertezza, nel dubbio, che succederà tra poco, quasi quasi me ne vado in pensione se posso. Lo scrive Enrico Marro. Sia i patronati, per esempio Luigina De Santis, che è dell'INCA, il patronato della CGIL, racconta: negli ultimi giorni i nostri uffici sono invasi da lavoratori pubblici e privati che hanno maturato i requisiti per la pensione d'anzianità e non sanno che fare. Trovate tutto a pagina 9 del Corriere della Sera sul tema pensioni, le persone che insomma nel dubbio appunto dicono quasi quasi qui è meglio darsi una bella mossa. Oh, come vedete tanta economia, la politica è un po' scomparsa, vi manca, cari ascoltatori, quel teatrino della politica, no? Si parla degli Zoom vietati alla Camera, la buvette che da ristorante diventa self-service, i sottosegretari, sia una discussione molto noiosa, francamente molto noiosa, di più che noiosa, barbosa, però insomma è una discussione, pare che ci siano questi sottosegretari in arrivo, è stata rinviata la riunione, forse lunedì prossimo, forse ci sono cose più urgenti, però in realtà la squadra dei viceministri, sottosegretari va completata, e qui ci sono di mezzo i partiti ovviamente. E infatti subito appena ci sono di mezzo i partiti, primo scoglio per Monti, slittano i sottosegretari, titolo all'Unità, pagina 6. La discussione di politica più eccitante è il dibattito all'interno del Partito Democratico, dove alcuni liberal ieri hanno chiesto a Bersani di cacciare il responsabile economico, Stefano Fassina del Partito Democratico. Il Manifesto fa tutta un'analisi a pagina 4, nella quale spiega che affassina perché Bersani intenda, cioè come dire, in realtà è un attacco alla leadership di Bersani e Partito Democratico, perché Fassina è un bersaniano, esperto di economia, bocconiano, classe 66, ha parlato in alcuni casi di macelleria sociale, quello che ci chiede l'Unione Europea in alcuni punti, insomma all'interno del Partito Democratico è nata questa idea, visto che lui è responsabile economico, ma è compatibile con il Partito Democratico Stefano Fassina? Ecco, la politica, almeno per oggi sui giornali, è tutta qui. C'è molto invece ancora di inchieste. Allora, la vicenda Finmeccanica riguarda e coinvolge in primo piano il numero uno, Guarguaglini, che ieri è stato convocato dal sottosegretario Antonio Catricalà un quarto d'ora di colloquio. Oggi Guarguaglini viene intercettato e intervistato dal Fatto Quotidiano, che ci apre l'intervista di Marco Lillo. Niente dimissioni, nessuno me le ha chieste, così dice Guarguaglini. Catricalà non mi ha chiesto di dimettermi, nessuno al governo mi sta facendo pressione in questo senso, tutti dicono che io resisto al mio posto, nessuno capisce che cerco solo di capire qual è il bene della mia società. Sembra di sentire parlare Berlusconi prima delle dimissioni, chiede Marco Lillo. Non pensa proprio che come il premier le dimissioni farebbero il bene generale di tutti? Se permette, io penso di distinguermi da Berlusconi per varie ragioni. Primo, io non ho nemmeno ricevuto un avviso di garanzia. Per la questione Digint non sono stato nemmeno indagato. Quindi penso che il mio compito è solo quello di capire cosa pensa l'azionista di maggioranza della società, cioè il governo. Ma Presidente, lei è indagato, lo hanno scritto tutti i giornali, non lo sa? Le spiego com'è andata, risponde Guarguaglini. Ai primi di luglio mi è arrivata una comunicazione del GIP di Roma sulla quale era scritto che il PM Paolo Ielo stava indagando su di me, ma non c'era scritto perché. Quindi non lo so, né nessuno mi ha convocato. Non dimentichiamo che l'iscrizione è spesso un atto dovuto. Insomma, Guarguaglini dice non mi dimetto. Oggi ci sono ancora carte sul ruolo di Lorenzo Cola, consigliere di Finmeccanica. Le carte ora e il nome che più gira sui giornali nuovo è quello dell'ex sottosegretario Miccichè, mentre un altro nome che gira è quello dell'onorevole Floresta, ex di Forza Italia, Ilario Floresta, secondo un pentito, uno che starebbe collaborando, Marco Iannilli, lo pagavo 15.000 euro al mese perché mi informasse su ciò che avveniva in Parlamento. L'ex onorevole era la mia spia in ENAV, cioè quello che avveniva in ENAV. L'ex onorevole, in questo caso Floresta, era la mia spia in ENAV, così dice Marco Iannilli. Eccoci qua, allora, una vicenda che fa male anche solo raccontare, è spaccato d'Italia. La vicenda praticamente è questa: c'è un giudice a Milano, si chiama Filippo Grisolia, che è stato chiamato al Ministero della Giustizia dal neoministro Paola Severino per fare diciamo, il capo di gabinetto, e allora ha lasciato i procedimenti in corso a Milano, ovviamente. Tutto da rifare. Il giudice al dicastero salta il processo di 'Ndrangheta. Il giudice Grisoli è stato chiamato dal ministro Severino e per una vicenda di una pentita, Lea Garofalo, che fu sciolta nell'acido, secondo l'accusa, perché aveva deciso di rompere gli schemi dell''Ndrangheta, è tutto da rifare. Il processo si stava concludendo. In questo processo, tra l'altro, era, racconta Giuseppe Guastella, per esempio, a pagina 17 del Corriere della Sera, in questo processo c'era stata già anche la drammatica testimonianza della figlia di Lea Garofalo, che aveva deciso con grande difficoltà di andare in aula e parlare in un'udienza che era durata in due udienze, fare una testimonianza drammatica nella quale accusava il suo proprio padre e difendeva la sua madre, dicendo, dissociandosi dall''Ndrangheta. Ovviamente questa ragazza adesso deve vivere protetta, con un nome nuovo, nascosta come testimone di giustizia. Ebbene, tutto da rifare, dovrà tornare a testimoniare, dovrà subire questo supplizio, e non solo. Giuseppe Guastella racconta che ormai certo che per tutto ciò scadranno i termini di custodia cautelare entro luglio 2012, gli imputati dovranno essere scarcerati, perché entro quella data non ci potrà essere assolutamente una